Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Il grande scomunicato ed è il nuovo romanzo di Luca Di Fulvio pubblicato da Bompiani. Un romanzo molto originale. Il protagonista, il grande scomunicato appunto, viene espulso da una città santa immaginaria governata dalla Chiesa. Carico di rancore, finirà per corrompere una piccola comunità, la comunità dei 24 mentecatti, che vivono senza il male e in armonia con la natura. Ecco come Di Fulvio descrive il grande scomunicato. Il grande scomunicato è innanzitutto l'incarnazione del male, è ciò che serve al bene a manifestarsi fondamentalmente, è la scelta, è il male. E il male da un punto di vista appunto metaforico, però in concreto è un uomo, lo vediamo all'inizio del romanzo, che viene espulso dalla cosiddetta città santa, cioè da una città che viene dominata dal potere della Chiesa. Assolutamente, e l'ho ambientato, anche se il romanzo è atemporale, ho messo che lui nasce alle soglie del 600, perché è il momento più cupo, secondo me, della Chiesa, è il momento del grande male, dell'Inquisizione, che brucia streghe e scienziati. Che cosa succede a questo personaggio quando viene espulso? Questo personaggio è condannato teoricamente a vagare per tutta la sua vita senza posa e invece arriva in un luogo dimenticato da Dio, dalle storie, da tutti, è un luogo evidentemente immaginario nel quale ci sono 24 personaggi, i mentecatti, che sono la purezza. È una specie di Eden, di paradiso terrestre, nel quale loro non hanno nessun tipo di problemi. Sono una specie di tavola pulita sulla quale scrivere e sulla quale lui scrive la rinascita della civiltà così come la concepisce e che è la civiltà nostra, secondo le mie intenzioni. La comunità dei 24 mentecatti non conosce cosa sia il male, non conosce l'invidia, non conosce tanti altri sentimenti negativi, sembra vivere in simbiosi con la natura. Come l'hai voluta descrivere? L'ho voluta descrivere esattamente così, cioè come ti dicevo, una specie di paradiso terrestre che non significa che siano il bene. Sono semplicemente la base su cui il male attecchisce corrompendo e permettendo agli altri, non ai mentecatti, ma per esempio agli unici che ci riescono, cioè la figlia del grande scomunicato e un ragazzo che è innamorato di lei e che discende dai mentecatti, permette a chi vuole scegliere il bene, chi vuole scegliere di levarsi dal male, di essere qualcosa che ha un suo sogno, di essere individui. Il grande scomunicato riesce quindi a corrompere questa piccola comunità. Il grande scomunicato fa di più che corrompere. Il grande scomunicato fa esattamente quello che per me sta esistendo nel mondo, cioè crea una dittatura di pensiero, crea una dittatura per cui noi siamo globalizzati e obbligati a pensare in una certa maniera e non c'è alternativa. Mentre invece la femmina e Luis Veloce, questi sono i nomi di questi due personaggi, attraverso l'amore riescono a conquistarsi un loro sogno. Quindi c'è un messaggio preciso che tu hai voluto mandare con questo romanzo? Assolutamente, che è non solo la ciclicità del male, ma anche la possibilità nostra di scegliere. Non c'è ineluttabilità. Noi possiamo scegliere di stare meglio. Ecco, com'è nata nella tua mente l'idea di questo personaggio del grande scomunicato? Credo che sia un... vorrei evitare parole tipo archetipo o cose del genere, però in qualche modo è l'uomo nero, e l'uomo nero ce l'abbiamo proprio dentro, lo conosciamo addirittura prima dell'uomo bianco, se è il suo corrispettivo. L'uomo nero è la parte peggiore di noi, con la quale entriamo in contatto con una grande facilità, è quello che in Kabbalah si chiama l'avversario, che peraltro è la traduzione letterale di Satan. Ma c'è una speranza in tutto ciò? Assolutamente, assolutamente. Io credo che sia una favola nera, ma che racconta qualche cosa di molto buono e positivo. Cioè, l'amore, e soprattutto attraverso quello che per me è la figura fondamentale, cioè la femmina, che si scrive tutto attaccato e rappresenta le donne. E credo che non solo le donne, ma anche l'aspetto femminile, anche dell'uomo, della società in assoluto, sia la chiave di volta. Dicevamo prima che c'è un messaggio appunto legato a questo romanzo, insomma c'è anche una critica alla società attuale. Assolutamente, è una società che non a caso io così descrivo come composta da reietti e deficienti, nel senso che i reietti sono coloro che sperano nel male, sguazzando nel fango, di ottenere vantaggi, i deficienti sono quelli che purtroppo non si accorgono di questo male e si può non essere né reietti né deficienti. A chi hai pensato quando hai scritto questo romanzo? C'è un pubblico particolare? Mi piacerebbe moltissimo che fossero i giovani, nel senso che i giovani hanno in questo momento un disagio enorme che in qualche modo gli abbiamo provocato noi, non regalandogli un mondo adeguato. E mi piacerebbe moltissimo che i giovani trovassero non solo la forza di arrabbiarsi, protestare, ma anche e soprattutto la speranza di conquistarsi il loro mondo. Perché per dare questo messaggio hai scelto una favola nera, dicevamo prima, e non magari di scrivere un pamphlet, un saggio? Perché proprio una favola? Beh, intanto perché io sono un cantastorie nell'animo e non un intellettuale. Rifiuto pesantemente il fatto morale di raccontare come si devono fare le cose. Una favola invece permette a chiunque di sentirla e non di capirla, permette a chiunque di scegliere e non di dover essere d'accordo o in disaccordo. E questo era Luca Di Fulvio, autore di Il Grande Scomunicato. Veniamo ora agli appartati, romanzo di Andrea Garbarino pubblicato da Tropea. Ecco come ne parla l'autore. Il romanzo è costruito su quattro personaggi. Sono due uomini e due donne. Gli uomini sono molto diversi fra loro. C'è un capitano di una nave che spiaggia nel Paranà, su una spiaggia del Paranà, e si arena lì, e questo capitano è governato da una forte disciplina che è necessaria sulle navi. L'altro personaggio maschile invece è un vecchio anarchico dinamitardo, il quale fa a suo modo la rivoluzione, ma contro prevalentemente le persone che turbano la sua quiete quotidiana. Vive in una baracca sulle palafitte e si difende con la dinamite dai fastidi della vita, diciamo, della vita comune. Le due donne, anche se sono diverse, c'è una quarantenne architetto che ha avuto delle esperienze sentimentali e matrimoniali piuttosto disastrose e che ha bisogno di solitudine, di pace per rimettere un po' in squadra la sua vita. E poi invece c'è una contessa piuttosto anziana che insidia, diciamo, il vecchio dinamitardo proponendogli una vita di agi nella sua bellissima casa vicino alla Recoleta a Buenos Aires. Ecco, che relazione c'è fra questi personaggi? In che modo interagiscono? Beh, inizialmente il romanzo li considera uno a uno, poi le loro vite si incrociano, come spesso accade anche per caso, e questo incrocio fa sì che tutti e quattro scoprano di essere degli appartati fondamentalmente. Quindi da persone, qui il titolo del romanzo. Sì. Delle persone che cercano quella quiete che è così difficile ottenere oggi, e naturalmente con obiettivi diversi, ma quello che li unisce poi è la rivolta contro una sorta di boss locale, che è molto violento, molto aggressivo, che praticamente passa il tempo cercando di impadronirsi di questa piccola città sul Paranà dove loro vivono. Quindi c'è un cattivo, insomma, c'è tutta questa storia. Cattivo. E il cattivo a un certo punto diventa così intrusivo nella vita di questi appartati che, attraverso una serie di intrecci e cose, questi si coalizzano contro questo boss e lo vanno a colpire dove gli fa più male, cioè nei soldi. Fanno un gesto che adesso non dico, sennò dopo chi non legge, svegliamo troppo. Esatto, fanno un gesto piuttosto clamoroso, di che poi è anche non solo un ristabilimento di un ordine morale, diciamo così, ma anche un riscatto delle loro vite da eremiti, cioè di persone che si sono un po' astratte dalla società, si sono arrese alle difficoltà della società e vivevano in un modo un po', diciamo, un po' egoistico, no? Invece questa cosa li rimette in ballo in termini più coraggiosi, diciamo così. Dimostra un coraggio che il lettore è guidato man mano a capire come nasce, ecco, come da persone isolate diventano persone capaci di difendersi e di affermare, di resistere, insomma, alle persecuzioni e alle prevaricazioni. E questo era Andrea Garbarino, autore di Gli Appartati. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.